si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Le 8 e quasi 31 minuti, una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e una buona giornata a te Carlo, buongiorno, come va? Va bene, dai, diciamo che va bene e buongiorno a te Laura, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora io nel frattempo ho contato, ci sono uno a volte due secondi di ritardo, ci perdoneranno, ma ovviamente siamo ovviamente distaccati, ecco come succede ormai, da quanto tempo ormai non ricordo neanche più Carlo, dall'inizio di marzo, sì dal grande lockdown praticamente. Sì, sì. Mm. Noi diciamo a fare la trasmissione a distanza abbiamo iniziato, se non sbaglio, l'8 marzo, poi il lockdown sì, è iniziato un po' prima. Siamo lì. La settimana precedente, perché eravamo preoccupati, riusciremo a andare in radio, no? Sono quasi due mesi. Sì signore. Beh, comunque oggi ma è giornata... di cose belle. Beh, esatto, precisamente, parliamo di cose belle. Intanto è giornata di quiz, quindi potete telefonare all'824-0024 e partecipare al nostro quiz. C'è la domanda, tre possibili risposte e chi vince, vince dei libri. Vince libri in attesa che i musei tornino ovviamente fruibili, ma c'è tempo per leggere e quindi noi vi forniamo la materia prima, no? Perché ci vuole il libro per leggere. Poi 349-238-6666 è il solito numero per SMS e WhatsApp. Saluto già Tiziana che ci ha mandato saluti e ringraziamenti di prima mattina. E poi cosa vogliamo dire? Cose belle in tempi brutti, no? Oggi è quello una cosa su cui vorremmo confrontarci. Tu Carlo, cose belle da segnalare in questo periodo? Cose belle in tempi brutti. Intanto mi accodo all'appello ai nostri ascoltatori. Chiamateci per raccontarci cose belle che accadono in questi tempi che belli non possiamo definire, ma insomma in tutte le situazioni, come ci ha insegnato, si può fare, si possono trovare dei lati positivi, dei risvolti positivi. E quindi vi chiediamo dalle storie piccoline del condominio, di chi quando porta giù l'umido anche della vicina, ovviamente senza nessun contatto, a storie di questo tipo, chiamateci o scriveteci che ne siamo molto contenti. E io uguale Laura, sempre nel tentativo di trovare cose belle in tempi brutti d'altro tipo magari, però mi sono reso conto che il fatto che questa epidemia sia globale ci permette di vedere come i politici di altri paesi gestiscono la stessa emergenza, le stesse informazioni, le identiche ansie delle rispettive popolazioni. L'altro giorno ho sentito la conferenza stampa di Angela Merkel, aiutato dal fatto che comprendo un po' il tedesco anche senza i sottotitoli, e mentre l'ascoltavo spiegare con una logica semplice e cristallina come funziona il contagio e per quale esatto motivo la riapertura del lockdown dovrà essere graduale, monitorata e prudente, ero partecipe delle sue preoccupazioni e mi sono sentito trattare alla pari e non come un cretino. Non c'è nessunissimo giudizio sulla politica di Angela Merkel, parlo esclusivamente di comunicazione, rispetto, senso delle istituzioni. Ecco, mi sono chiesto perché invece i nostri politici ci parlano sempre come se noi fossimo stupidi, dei bambini che non sanno gestirsi e che vanno convinti spaventandoli, sgridandoci, minacciando punizioni, multe, l'esercito per le strade. Nessuno penso può dimenticare lo stesso Conte che redarguisce dicendo faccio i nomi e i cognomi come un preside innervosito. Ecco, penso che questo atteggiamento di superiorità nei confronti di tutti noi è lo stesso che poi permette a un governatore a cui viene chiesta ragione di quasi 12.000 morti di rispondere la colpa è dei tecnici, come se questi non dipendessero dalla regione stessa che lui dovrebbe amministrare, come se la responsabilità politica fosse lei stessa morta di coronavirus. È lo stesso atteggiamento che permette ad alcuni politici di dire i giorni pari apriamo tutto e i giorni dispari chiudiamo tutto senza vergogna e aggiungendo pure io l'avevo detto. È lo stesso atteggiamento che permette di dire in Italia no al MES, sì ai Corona Bond, e poi di votare l'esatto contrario in Europa, rendendoci ridicoli, inaffidabili, per non dire pericolosi. Ecco, io credo che la cosa bella in tempi brutti che possiamo imparare dai nostri vicini sia ciò che spesso qui dimentichiamo, ovvero che si può fare anche in altra maniera, cioè senza rischiare ogni volta di perdere il senso minimo della decenza. E lascio il secondo di riflessione. Sai, io invece avevo pensato a cose molto più piccole, sulle cose belle in tempi brutti. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, sia 349-238-6666. Vanno bene tutte. Sia all'824-0024. In realtà la mia piccola cosa bella me l'hai rubata un po', diciamo così, all'inizio, cioè la rete con i vicini, che non conoscevo tanto bene prima dell'inizio di questa chiusura. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci ricorda che sono esattamente 40 giorni, dice, quindi dopo la quarantena sarebbe finita teoricamente. Nei secoli scorsi ci sarebbe stata l'apertura delle porte. Beh, io ho conosciuto meglio i miei vicini, tra l'altro, vabbè, li ringrazio, ma come ringrazio, voglio così attraverso questo microfono, tutti i vicini d'Italia per le reti che si stanno costituendo di solidarietà, di amicizia, di piccolo aiuto, come dicevi, la spazzatura, il ritiro della spesa, che so io, la condivisione dei giocattoli per i bambini, perché dopo 40 giorni si sono un po' tutti stufati, se ce li scambiamo magari, no, cambiano un pochino panorama. Insomma, io avevo pensato ai vicini. Io non so, c'è già un ascoltatore, vedo in collegamento, che è Aurelio dalla provincia di Bari. Buongiorno Aurelio. Buongiorno a voi. Buongiorno Aurelio, per buongiorno. Cosa ci ha chiamato? Perché c'è sorpresa, io non so se ci ha chiamato per il quiz, per la sì, cosa per bella in tempi brutti, per il quiz. No. Per vincere il libro, insomma. Va bene, va bene. Allora Carlo, ci prepariamo, tiriamo fuori il nostro foglio. Certo, è comunque una cosa bella in tempi brutti, un libro in omaggio. Esatto. Diciamo che li abbiamo letti tutti in questi periodi, quindi ci manca qualche anche libro. Anche lei ha bisogno di cambiare un po' il panorama. È un'altra ottima notizia, li abbiamo letti tutti comunque. Sì, diciamo che in questi periodi che fai? Diciamo, ti metti, leggi i libri, giusto, un po' di pulizia a casa. Allora, le facciamo il nostro quiz per vedere se ne vince un altro, così tanto appunto per introdurre qualche novità tra le letture. Allora, il quiz è questo. L'esplosione del coronavirus ha causato la cancellazione di molti eventi. In Inghilterra però c'è una manifestazione che non si arrende e quest'anno si svolgerà online. Di quale evento si tratta? Risposta numero uno, Miss Inghilterra. Risposta numero uno, Miss Inghilterra. In questa edizione le concorrenti sfileranno in casa o in giardino riprendendosi con una webcam. Risposta numero due, la caccia alla volpe. La Royal Fox Society ha organizzato una caccia virtuale tramite Google Maps. Risposta numero 3, il recital del giovedì al Globe Theatre sarà interpretato da avatar virtuali controllati a distanza dagli attori. Beh, sono tre, è una domanda molto difficile, però io diciamo che opterei più che altro, ma posso anche sbagliare, sulla prima. Cioè su Miss Inghilterra? Miss Inghilterra. Sì, o la prima o la terza, comunque dico la prima, dai. Ed è vero, ci ed sarà è vero. Miss Inghilterra. Mi sembra vorrei sfatare il mito, vorrei sfatare questo mito che la domanda fosse troppo difficile, perché onestamente Miss Inghilterra è ci può stare, invece la caccia alla volpe su Google Maps mi sembrava un po' difficile, come anche degli attori che guidano degli avatar di loro stessi. Beh, sono stato molto bravo allora. Allora, bravissimo Aurelio, chi ben comincia, insomma, la giornata è iniziata con una vittoria, un premio, quindi insomma le auguriamo di proseguire così. Grazie molte. Grazie a voi, buona giornata. E continuiamo a parlare di libri, Carlo, con la nostra prima ospite di giornata, che è Roberta Bonci, titolare della libreria Senese in via di Città. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi buongiorno. Avete potuto riaprire, no? Quindi ci sono regioni in cui si può, regioni in cui non si può. La Toscana è una di quelle e Siena è ovviamente è in Toscana e quindi avete potuto riaprire. Intanto, con quali precauzioni ci si può accostare, diciamo, ai libri e alla libreria? Beh, innanzitutto abbiamo fatto una sanificazione dei locali, anche se il locale era chiuso da un mese, completamente chiuso, quindi penso si fosse già sanificato da sé, ma comunque abbiamo fatto una pulizia con varicina, alcol, eccetera. E anche quella dell'aria condizionata, abbiamo chiamato il tecnico per i filtri, eccetera. E poi le precauzioni: facciamo entrare 4 persone in negozio, non di più. Noi abbiamo un locale 200 metri quadrati, sono 2 vani sul piano di sopra, però 4-5 persone, non di più, e ci accertiamo che mantengano comunque le distanze, l'abbiamo scritto, ma comunque le persone sono abbastanza attente in questo, ecco. Sì, arrivano già preparati, ecco, all'idea di non poter fare come prima. Sì, qualcuno addirittura, se vede che c'è già persone dentro, si ferma all'esterno. Poi abbiamo a disposizione guanti lattice per i clienti e il liquido e il gel disinfettante a disposizione dei clienti. Noi segniamo le mascherine, ma sull'autocertificazione? Sull'autocertificazione quindi si può scrivere acquisto libri? O avevo bisogno di leggere qualcosa di Antonio Tabucchi? Io credo di sì, penso di sì, perché dal momento che comunque uno può venire da noi a comprare, cioè dal momento che noi siamo aperti, penso possa venire in libreria. Cioè, io so che per certo che noi possiamo fare consegne a domicilio. Anche personalmente. Questo certo, ci mancherebbe. E, anzi, addirittura ci hanno detto il comando di polizia municipale che preferiscono, così la gente non si muove meno. Però io penso che valga la stessa regola dei vivai. Siena è andata che in ritorno, nel senso, voi potete uscire dicendo consegno una merce, no, che posso consegnare, sì. E chi viene può dire vado a comprare una cosa che si può comprare. Io penso di sì, per i vivai è la stessa regola, penso che sia anche per noi, insomma, dal momento che il negozio è aperto. Ma senta, io le pongo una domanda che ci sta ponendo tra l'altro un ascoltatore, perché dice molti librai indipendenti però hanno preferito non aprire per il momento, hanno paura magari di rinunciare a gli strumenti emergenziali che sono stati messi a disposizione dal governo, per esempio, o c'è una paura magari di contagio? Ma dunque, io penso sia forse anche un problema di costi. Perché comunque munirsi di tutte le cose, oppure fare la sanificazione o chiamare una ditta specializzata, magari comporta comunque un costo, e ovviamente le entrate in questo periodo, in questo momento, sono veramente limitate, quindi dipende un po', ecco, magari qualcuno avrà fatto anche il conto, avrà detto non mi conviene riaprire, non so se riaprendo si rinuncia. Ma lei è contenta al... Noi sì, noi tantissimo. Lei è contenta di aver aperto? Nel senso che abbiamo tutti letto, ci sono varie posizioni, c'è chi dice noi siamo librai, non siamo altro, insomma non dobbiamo essere né difesi come una specie protetta, qualcuno dice non bisognava ancora aprire le librerie, qualcuno dice che invece le librerie si sono organizzate molto bene e, come ci stava giustamente spiegando lei, facendo l'invio a casa, in realtà in qualche modo è come se avessero... superato Amazon stando a casa, quindi com'è la situazione? Dunque addirittura c'è qualche libraio a Siena che non si è mai fermato, cioè che ha comunque continuato a fare le spedizioni. Noi decidemmo subito di fermarci, perché rispettando la regola di stare a casa si decise proprio di non fare niente, cioè di non mettere in moto un meccanismo per il quale dovevamo andare avanti e andare indietro in negozio, già questo. Al momento però che hanno dato la via libera, Noi, cioè al momento che ci hanno dato il permesso di riaprire, noi abbiamo riaperto subito, ma ripeto, non è tanto per il guadagno di per sé, perché lei si può immaginare, se guarda Siena in questi giorni, è deserta il centro, noi siamo in centro, ma è proprio per una soddisfazione, certo, personale di essere lì, di essere stati richiamati per primi a, a riaprire, perché comunque piano piano bisogna ripartire, e quindi essere stati chiamati per primi a ripartire, per rivedere anche i nostri clienti, perché poi noi siamo una piccola città. Mancando il turismo completamente, noi adesso vediamo solo le persone di Siena, tutti i visi noti più o meno, persone che conosciamo bene o che conosciamo di vista. Senta, le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci. Sì. Insomma, che cosa le chiedono i senesi come lettura in questo periodo? Principalmente, diciamo, che tipo di libri? Ma dunque, senta, devo dire con un certo sconcerto che molti chiedono, anche perché vabbè, è stato consigliato in alcune scuole di Siena, La peste di Albert Camus. Ah, ecco, vogliono stare questo, leggeri. Sì, sì, ecco appunto. Allora io mi permisi di consigliare a qualcuno anche Anna, questo pre-chiusura, visto che gli piacevano le cose insomma un po' forti, un po' tragiche, Anna di Ammaniti, che è sempre una storia abbastanza angosciante, però no, niente, chiedono romanzi, comunque posto di apertura romanzi, sì, cose leggere, gialli, ultimi gialli di autori usciti adesso, insomma, tipo anche l'ultimo di Alessandro Robecchi, o comunque narrativa leggera, ecco. Sì. Sì, sì, gialli, romanzi. Comprensibilmente, no, pensavo magari anche un po' di manualistica, visto che si fanno tante cose a casa, ma invece no, il libro resta più per l'intrattenimento. Insomma. Sì, sì, il libro è soprattutto per l'intrattenimento, cioè quasi sempre, cioè sempre di più. Manualistica non è più molto... Che c'è internet, molto, probabilmente, che sostituisce. Brava, sì, ecco, sì, infatti... I tutorial. Sì, infatti potete immaginarvi perché, ma la manualistica è un settore che è un po' in calo, molto in calo. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie Roberta Bonci per essere stata con noi, Libreria Senese in Via di Città. Abbiamo la viabilità tra pochissimo. Si può fare. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I'll see if I can use it for the weekend or a one-night stand. Ho collezionato un po' delle risposte dei nostri ascoltatori al tema cose belle in tempi brutti. Ve le leggerò tra poco, Carlo, te le leggerò tra poco perché tu puoi vederne solo una parte. Io ho anche qui i messaggi io WhatsApp. Io posso vedere solo gli SMS. Precisamente, vero. Precisamente. Ma le vorrei leggere dopo aver presentato la nostra prossima ospite, perché anche lei è una collezionista di cose belle in tempi brutti. Lei è Sabina Baccaro, dico bene? Baccaro. Sì, sì, benissimo. Buongiorno Sabina. Buongiorno. Ideatrice di un sito che si chiama Una Storia Diversa, un'iniziativa che vuole appunto regalare un sorriso, una speranza in questo momento difficile, e un sito in cui si collezionano per l'appunto, no, storie belle. Assolutamente. Una storia diversa, appunto, It nasce proprio da, diciamo, dalla voglia, non solo mia, ma proprio di un gruppo di persone, di dare spazio alle storie positive e alle tante iniziative di solidarietà, insomma, che ogni giorno fioriscono in tutta Italia nel pieno dell'emergenza. Siamo quindi partiti da un'idea di Salvatore Ducato di Nova Strategy e insieme a l'agenzia di pubbliche relazioni Teoria, che è appunto la mia agenzia, abbiamo proprio voluto dare vita a questa, chiamiamola così, piccola isola di serenità online, dove raccontiamo e raccogliamo queste storie belle, perché semplicemente noi per primi in questo continuo bombardamento di notizie negative, di dati abbastanza preoccupanti, avevamo bisogno di un segnale di positività e di speranza e volevamo darlo anche agli altri. E devo dire che lavorare a questo progetto, Una storia diversa, ci sta dando una carica incredibile. Insomma, siamo ormai in quarantena da più di un mese, sebbene, insomma, noi siamo delle privilegiate perché continuiamo a lavorare, seppur in smart working, ma ci rendiamo conto che è un momento veramente difficile quello che stiamo vivendo, non solo per noi ma per tutti. Sentire, raccontare, leggere di belle storie ci rende tutti più vicini, insomma, anche con le mie colleghe, con le persone che ci lavorano. Dietro Una storia diversa ci sono infatti tanti creativi, esperti di social, giornalisti, insomma, designer, anche fotografi. E stiamo vedendo come una storia diversa piazza, come ci sia effettivamente bisogno di sentire di belle storie. Il sito unastoriadiversa.it sta crescendo tanto. Ma questo sito diciamo è un sito al quale possiamo contribuire, magari segnalando, non so, scrivendovi? Assolutamente, noi ovviamente siamo sempre a caccia di belle storie e chiediamo anche a chi ci segue di segnalarci, insomma, la propria storia, magari la storia del proprio paese, del proprio quartiere. Diciamo che ci stanno anche arrivando, insomma, diverse segnalazioni. Forse all'inizio noi siamo partiti da più o meno una settimana, all'inizio c'era un po' di timidezza, ma adesso cominciano ad arrivare tante segnalazioni. E ovviamente ci sono tante, scusami se ti interrompo, stavo guardando, sì, per l'appunto il sito, ci sono tante segnalazioni sulle donazioni, sul gruppo solidale che porta, no, gli alimenti ai bisognosi, ma ci sono anche storie magari appunto di narrazione, non lo so, di favole, c'è un po' di tutto, ecco, medici, infermieri, Milano, Abruzzo, c'è un po' tutta Italia anche. C'è un po' di tutto, c'è assolutamente tutta Italia. Noi raccontiamo nel nostro sito soprattutto le vicende, quelle piccole, quelle locali, che non sono, come dire, tanto battute dai TG, no? E troviamo tantissimo, come dire, materiale, c'è una grande miniera sui tanti gruppi Facebook che sono sorti con l'emergenza, nelle social street di Facebook, che sono molto attive dal punto di vista della solidarietà, ovviamente oltre a poi ai siti, insomma, più autorevoli, come ad esempio quello della Croce Rossa Italiana o i siti delle aziende che si stanno impegnando e che ci raccontano ogni giorno di iniziative, di storie di solidarietà. Sabina, fermati un attimo, sì, perché ho l'impressione, Sabina, che Carlo volesse fare una domanda, infatti. Certo. Sì, volevo fare una domanda. Intanto complimenti, noi siamo felicissimi, insomma, ci occupiamo di buone notizie da quasi 10 anni, quindi ne capiamo molto bene il significato, sia nel momento di coronavirus, sia un po' in qualunque momento, perché le buone notizie fanno meno notizia delle brutte notizie. È più facile scrivere un numero di morti sulla prima pagina e vendere delle copie piuttosto che parlare di buone notizie, quindi siamo molto contenti, anzi vi useremo anche un po' come redazione distaccata. E a questo proposito volevo chiederti se ci racconti una storia, due storie di queste che vi sono arrivate, di queste più, quella che ti è piaciuta di più. Tra quelle che ci hanno, insomma, segnalato, c'è sicuramente la storia di 5 ragazzi della provincia di Varese che hanno trasformato una loro passione, quella per la stampa 3D, in una vera e propria macchina e questi ragazzi producono ogni giorno visiere, circa 400 al giorno, che sono un'immensità, che poi vengono donate agli ospedali della Lombardia e alle forze dell'ordine. Tra l'altro io ne approfitto, insomma, per fare un piccolo appello affinché, insomma, anche i vostri ascoltatori ci segnalino le loro storie. Abbiamo una mail dedicata sul nostro sito, unastoriadiversa.it, per cui noi le aspettiamo, insomma, molto volentieri. Te ne leggo qualcuna di quelle che ci sono state segnalate di cose belle in tempi brutti che sono arrivate così in questi ultimi minuti. C'è qualcuno che segnala, va bene, la bellezza di risentire dei bambini che giocano nel cortile, dove di solito non c'erano più perché erano impegnati nelle loro attività e invece adesso ogni tanto scendono, insomma saranno regioni magari con una morsa un po' meno stretta di quella della Lombardia. C'è qualcuno che segnala un'amicizia che sta maturando in qualcos'altro, il gruppo WhatsApp fatto tra tutti quelli che abitano nella stessa via, la lettura delle fiabe ai nipotini come appuntamento fisso serale che dà grande soddisfazione. Un altro ascoltatore che scrive che da quando è iniziata la serrata ha preso l'abitudine di attaccare un bigliettino alla porta di casa, della casa in cui abita l'ex moglie con la figlia, è un bigliettino per riscaldare il cuore sia della figlia, dice, ma anche dell'ex moglie, che quindi insomma c'è un riavvicinamento almeno in questo momento per no, sentirsi vicini. E quindi piccole storie che arrivano anche qui da noi, Sabina. Sì, assolutamente, ce ne sono tantissime e noi abbiamo proprio voluto raccoglierle un po' simbolicamente in alcune sezioni che richiamano delle azioni in questo momento sospese. Infatti sul nostro sito troverete la sezione sorrisi, che non, ovviamente li possiamo ancora fare ma dietro le mascherine è difficile vederli, così come pure la sezione baci, abbracci, incontri, proprio per parlare di piccoli momenti di quotidianità. Ma ci sono le mascherine per i sordi che hanno davanti la plastica, ne abbiamo parlato settimana scorsa, e quindi con quelle si può anche sorridere. Sono mascherine fatte apposta per i non udenti che devono leggere il labiale, ma in realtà che a noi piace anche diciamo raccontare come mascherine pro sorriso. Assolutamente, ci stiamo per fortuna attrezzando anche in questo senso. Bravi, bravissimi. Sabina, io ti ringrazio molto. Dobbiamo dare la linea a GR24, ma voglio ricordare il sito unastoriadiversa.it. Ci ritroviamo subito dopo, Carlo, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Torniamo insieme, torniamo con Si può fare. Carlo, ti ritroviamo, vero? Certo che sì, qua pronti. Pronti all'824, sì, lo dico bene, sì, 824 0024, potete così chiamare per dirci le vostre cose belle in tempi brutti, ma potete anche scriverci al 349 238 6666, come hanno fatto alcuni ascoltatori, Carlo. Ti leggo alcuni dei loro messaggi, meglio, ti riassumo alcuni dei loro messaggi. Certo. Qualcuno ha organizzato un torneo di tennis virtuale, bisogna fotografarsi, riprendersi in casa, insomma, mentre si gioca a tennis in qualche modo, si concorre, c'è poi dopo una donazione finale alla Protezione Civile, e intanto però insomma si è passato del tempo, si sono viste le foto degli altri, c'è un filmino che ci ricorda questo momento. Poi qualcun altro ci ha segnalato una raccolta, una colletta dei richiedenti asilo a Treviso che hanno raccolto del denaro, 1000 euro, per poi donarlo e anche alle strutture sanitarie che li hanno curati in questo momento, che comunque curano i trevigiani in questo momento. Una signora anziana, cose belle, sono i suoi vicini di casa perché le portano delle pietanze, suonano, lasciano la pietanza davanti alla porta e in una certa misura, no, le tengono così compagnia. Potete comunque continuare a segnalare le vostre cose belle in tempi brutti, appunto ai numeri che vi dicevo, 349-238-6666, ora ce la faccio, per gli sms WhatsApp, o al numero verde 824-0024. E ho volontariamente chiuso sul tema della cucina, perché io non so come va a casa tua, Carlo, a casa mia si cucina decisamente di più. Ma da me no, non tanto. Vengo tenuto a dieta e sono grato al mio fidanzato per questo, perché penso che sennò sarei ingrassato di 28 kg. Beh, quindi verdurine crude non è niente, niente cucina, niente di niente. Esatto, ceci, molti ceci. Molti ceci, va bene, comunque dai. Ceci non comportano uno smodato uso di olio, le fritture invece ad esempio sì, ma si consumano anche tanti, no, sottoli in generale e tonno in scatola. Insomma, bisogna stare attenti a dove lo andiamo a scolare, esatto, quest'olio. Quindi chiediamo come comportarci a Tommaso Campanile, che è il presidente di CONOE, Consorzio Nazionale Raccolta e Trattamento Oli e grassi vegetali ed animali esausti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente. Allora, buongiorno. Ovviamente l'olio in Italia si consuma tantissimo, in questo periodo forse di più, e non si deve scolare nel lavandino, vero? Esattamente. L'elenco dei buoni comportamenti, dei comportamenti degli italiani che stanno cambiando, che lei ha fatto poc'anzi, deve comportare anche un modo diverso di gestire questo rifiuto nelle nostre case. Dunque, quindi cosa facciamo? Lo dobbiamo... Ma che cosa succede? Oggi, chiedo scusa, mi è molto chiaro che non bisogna buttare l'olio nel lavandino, ma vorrei ricordare anche ai nostri ascoltatori che cosa succede se si butta l'olio nel lavandino. Purtroppo succedono delle cose non belle, nel senso che quest'olio va a finire nel sistema fognario e poi purtroppo o nei depuratori, che ha un costo di depurazione elevatissimo, oppure addirittura si disperde nell'ambiente inquinando notevolmente la natura. Pensi che 5 litri d'olio inquinano un territorio grande come un campo di calcio, addirittura se poi va nelle falde inquina ovviamente l'acqua, ecco, che poi perdiamo. Volevo esattamente sentire questo, perché esattamente spesso quando uno svuota magari la semplice lattina di tonno dice vabbè, che cosa farà questo goccino, invece appunto 5 litri possono inquinare un campo da calcio. E poi abbiamo visto anche delle immagini pazzesche a Londra di questo Fatberg, gli hanno anche dato un nome, che è un mostro di olio e altri residui, in realtà altre cose buttate nel gabinetto, che se non sbaglio pesa 130 tonnellate ed è grande come un... Dica. 130 tonnellate di peso, che sono una quantità enorme di materiale inquinante, e quindi fa male alla salute delle persone, fa male alla salute della fauna e della flora. E sicuramente crea un problema anche sulle come si chiamano, le strutture per il filtro dell'acqua, quindi poi dopo gli ingorghi anche nelle fognature. Su tutta la e così rete via. Fognaria, assolutamente. Assolutamente, le reti poi scoppiano e quindi questo poi crea dispersione. Ma addirittura se questo non avviene, si arriva con quest'olio al depuratore per depurare quel litro di olio che arriva dalle nostre case, il costo è equivalente al costo di acquisto di un olio di semi da frittura, di un olio nuovo di semi da frittura, di un litro di olio. Immagini che danno, che anche economico, che genera per la comunità. Sicuramente, invece a noi costerebbe poco, tutto sommato, avere una bottigliona, diciamo, di plastica, ho visto spesso la richiesta, per raccoglierlo e poi conferirlo laddove va conferito. mi dicono a Milano, come si fa? Esatto, nelle isole come ecologiche si fa durante, o a volte durante il coronavirus, come si fa, che di solito bisogna andare, come giustamente stava dicendo Laura, a portarlo all'isola ecologica, ma siccome non possiamo uscire per andare all'isola ecologica, c'è qualcuno che lo ritira, che cosa sta succedendo? In alcune città dove abbiamo iniziato ha iniziato questo progetto di raccolta degli oli familiari, abbiamo attivato anche un, che in questo momento è anche assolutamente necessario, una raccolta porta a porta o di vicinato. Laddove non è possibile, laddove c'è la quarantena, quindi non è possibile uscire di casa, la raccomandazione che abbiamo fatto è quella di conservare l'olio, utilizzando tutti i recipienti possibili, nel senso delle bottiglie dell'acqua minerale vuote piuttosto che altre, oppure i contenitori che in genere sono messi a disposizione dalle aziende municipalizzate del comune. Io segnalo che l'importante, ci sono anche alcuni supermercati che lo raccolgono, e quindi quella volta alla settimana o 15 giorni in cui si va a fare la spesa, se il vostro supermercato ce l'ha... Questo mi sembra un ottimo consiglio, Laura. In alcuni quartieri stiamo iniziando anche questo tipo di raccolta attraverso i supermercati che si sono resi disponibili ad ospitare questi impianti, diciamo, per la raccolta, e devo dire che sta funzionando, ma soprattutto stiamo vedendo che tutto sommato il comportamento dei nostri concittadini si sta maturando anche da questo punto di vista, si sta comprendendo che un buon comportamento non solo evita inquinamenti, ma può dare una mano ad una nuova economia, un'economia circolare che in qualche modo poi... Ecco, a proposito, che cosa viene fatto con l'olio recuperato? Che cosa ci fate? Con l'olio recuperato si fanno molte cose, si facevano soprattutto fino a qualche anno fa saponi, detergenti e anche cere. Ora il 90% dell'olio che riusciamo ad intercettare, che è soprattutto quello dei ristoranti, delle friggitorie, ha un destino assolutamente nobile, vale a dire sostituisce il petrolio nella produzione del biodiesel, vale a dire con quell'olio, con quello scarto, con quel rifiuto che in genere andava disperso, si produce il biodiesel e quindi si evita l'importazione di tali quantità di petrolio, e quindi con un abbattimento anche delle emissioni climalteranti che contraddistinguono poi l'uso degli idrocarburi. Presidente, la ringraziamo molto. Ma quindi regalate... anche sì. Carlo, guarda l'orologio, lo sai. Esatto, era una stupidata, chiedevo se regalavano mezzo litro di benzina a chi consegnava 100 litri d'olio. Questo purtroppo non è nelle nostre cose, nel senso che non dobbiamo chiederlo ai produttori di biodiesel se possono fare uno sforzo giusto, in questo giusto. Senso, glielo chiederemo. No, mi scusi, dai, era una battuta. Chiedetegli un buono per un pochino di benzina. Grazie Presidente, abbiamo grazie la viabilità, a tra poco. Si può fare. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. E torniamo con le cose belle e i momenti brutti con Simonetta, che ha chiamato dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simonetta, lei cosa ha inventato per allora, questo periodo? Inventato quello che potevo fare al telefono. Io ho due nipotine, una in Francia e una a Roma. Allora, siccome non le posso vedere più, purtroppo, ormai da tanto tempo, che cosa mi sono inventata? La possibilità di comunicare con loro, ma non soltanto per dirci ciao, come stai, ok, ma di giocare con loro, come facevamo fisicamente, dal telefono. In che modo? Cioè, io mi ricordavo la vecchia battaglia navale, non so se voi la conoscete, ma penso che sia un gioco... Certo. Sì, certo, come no? Le lettere e i numeri, no? La battaglia navale. B28. E allora facciamo la battaglia navale, che è un gioco che li appassiona da morire, evidentemente. E poi il gioco dell'impiccato. Vabbè, il quello gioco... giusto si può fare, certo. Ecco, e questo è sopra... a parte il fatto che diverte me e loro, perché mi diverto pure io, questo consente ai genitori che devono lavorare chiaramente con il telelavoro, eccetera, di essere liberi per un'oretta, perché noi prolunghiamo questi giochi, poi parliamo, poi litighiamo perché qualcuno imbroglia, no? Ecco, e questa è una cosa appunto che consente a me di stare con loro, a loro di divertirsi, ai genitori di lavorare, e quindi abbiamo un appuntamento fisso tutti i giorni alle 5. Ma giocate al telefono o su Skype? No, al telefono, al telefono. Perché? Ma perché l'impiccato lei... è quello dove si deve... indovinare la parola con le lettere mancanti, giusto? È una specie di parole crociate, come dire. Allora io gli dico, ho una parola di 10 lettere, comincia con la C, finisce con la O. Ecco, e tu hai la possibilità di indovinare... Indovina le 8 lettere centrali. Esatto. E beh, un po' come le parole crociate, che uno trova la C, allora ha trovato il trucco, mia nipote. Io ti chiedo prima le vocali, giustamente, perché... siccome vocali nelle parole italiane ce ne sono, già ti danno un'indicazione. Se uno comincia T, R, M, S è difficile, invece con le vocali già c'ha un'indicazione. E questo sviluppa anche un pochetto appunto l'intelligenza, la svegliezza dei ragazzini. No. Mi sembra un'ottima idea. Se qualcuno signora. Ha da segnalare altri giochi che si possono fare al telefono, scriveteci che noi li passiamo poi a Simonetta. Proporre. Grazie, perfetto. Grazie molto. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Abbiamo detto davvero tante volte di aziende che si riconvertono in questo periodo, che si reinventano, che cercano di mettersi a disposizione della comunità per appunto rendersi utili in momenti di emergenza. Sicuramente tra quelle che si sono mosse ci sono tutte quelle legate alla filiera della moda, che nel loro business tradizionale sono ferme o quasi ferme, o comunque vedono un periodo nero davanti, ma che sull'immediato possono fare molto per aiutare. E allora noi abbiamo contattato Antonio Franceschini, che è responsabile nazionale di CNA Federmoda. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Perché abbiamo letto di questo accordo che avete fatto tra l'altro con Confindustria Moda, ma anche lo Sportello Amianto, per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione, grazie appunto a tutte le aziende, laboratori artigiani che sono con voi e che possono appunto in questo momento essere davvero di aiuto. In cosa consta questa intesa? Beh, l'idea appunto è stata quella di cercare all'inizio dell'emergenza di capire come si poteva dare un contributo anche al paese, vista la carenza di prodotti a cui si è fatto riferimento, per cui quasi in contemporanea noi CNA Federmoda, come anche Confindustria Moda, lanciamo una call verso le nostre associate per verificare quali ovviamente potessero anche essere in grado di realizzare questo prodotto e quali disponibili. Sulla strada abbiamo incontrato dato la grande disponibilità di Sportello Amianto Nazionale per far parte del network e il supporto operativo di Price Waterhouse. Abbiamo quindi creato una sorta di network informale, quindi costituito, raccolto alcune centinaia di imprese che hanno dato questa disponibilità. Oggi quindi è presente sul territorio nazionale una filiera italiana che può produrre le mascherine, soprattutto dire, la grande massa della produzione, quelle oggi concentrata su quelle che sono le mascherine per la collettività, per intenderci, quelle citate nel decreto del 17 marzo, l'articolo 16,2, e su queste grandi. Poi ci sono all'interno, che sono ovviamente quelle anche da parte di imprese che, come giustamente lei diceva, sono il loro core business, è un altro, insomma, sono imprese un po' del settore moda, tessile, abbigliamento, anche pelletteria, e altre, alcune dentro questo network, però ci sono anche imprese che stanno cercando di arrivare con un upgrade, di andare anche verso delle tipologie di mascherine di un livello superiore, che possono le cosiddette FFP2 e FFP3, è una cosa questa più complicata, però insomma, auspichiamo che nelle prossime settimane alcune anche di quelle che hanno avviato questo percorso possano giungere anche ad ottenere questa validazione. Certo. L'importante è che quello che oggi, insomma, quello che dobbiamo dire è che la grande disponibilità e competenza del settore tessile, abbigliamento, in generale moda italiano, ha messo sul campo la volontà di riconvertire, di postare, lanciare anche un messaggio come quando tu hai comunque il settore con delle competenze, delle capacità produttive, riesci comunque a essere di supporto. Con questo diciamo che possa essere anche un messaggio per il futuro, per dare anche dal punto di vista istituzionale un riconoscimento maggiore a quelle che è la nostra capacità produttiva, il nostro mondo manifatturiero. Cioè, questo potrebbe essere... Senta. Prego. Scusa Carlo. No, ma figurati, io volevo chiedere una cosa. Abbiamo tutti letto questa lettera accorata di Giorgio Armani, che diceva: io non voglio più lavorare così, è immorale, è tempo di togliere il superfluo e ridefinire i tempi. Questa crisi è una meravigliosa opportunità per rallentare tutto. E dice anche: basta con la moda come gioco di comunicazione, basta con le sfilate in giro per il mondo al solo scopo di presentare idee blande, basta intrattenere con spettacoli grandiosi che oggi si rivelano per quel che sono, inappropriati e volgari. Che cosa pensa di questa lettera di Giorgio Armani? Ma questa è una lettera molto, molto interessante, come c'è nella Federmoda, rappresentando artigiani e PMI, è anche molto rapidamente è condivisibile. Crediamo sia importante che un grande della moda italiana abbia portato appunto queste questioni all'attenzione, che sostanzialmente rimandano a un tema di etica generale. Con noi come associazione dell'artigianato e della PMI da tempo ecco, sosteniamo che dobbiamo riportare all'attenzione anche del consumo quelli che sono i valori intrinseci alla filiera, partendo da quell'etica del lavoro, l'etica sociale, il rispetto. Credo che questa situazione, questa crisi che qui siamo trovati inaspettatamente in un qualche modo di fronte, ci riporterà a grandi riflessioni. Andremo verso, a mio parere, un tema di una maggiore sensibilità su tanti diversi aspetti, quindi l'impegno, la reputazione, immagino e auspichiamo che diventino sempre più valori strategici, così come la coerenza anche del mondo imprenditoriale dei prodotti, che dovrà essere un po' la cifra della prossima fase. Quindi tutto questo io vedo che per l'artigianato e per le PMI è un importante messaggio che venga dal dottore Re Giorgio, e speriamo che veramente anche il consumatore possa in qualche modo riappropriarsi in qualche modo di quello che sia il concetto di un investire, di una qualità, e sia in qualche maniera meno affascinato dal cambiare continuamente, assolutamente. Poi tra l'altro, se si parla appunto di lavoro artigiano, è un lavoro che di solito prende anche molto tempo, no? Quindi anche vederlo consumato nello spazio di 6 mesi credo che sia insomma difficile, ecco, da sopportare, e comunque non può starci un artigiano su quel fronte lì, ci sta qualcun altro che produce in serie, quindi vi marginalizza. La riportavo un po' all'inizio, quello che lei ci diceva, ci auguriamo che anche questa situazione, diciamo, in cui noi ci mettiamo a disposizione, poi più avanti, diciamo, faccia capire al governo che è il tipo di supporto di cui abbiamo bisogno. Ho capito bene? Era una cosa così? Sì, il messaggio deve essere quello, nel senso di dire, vede, noi abbiamo, dire, questa situazione ci metto adesso non solo per la moda, immagino, ma anche per altri settori, ha messo in evidenza come, in qualche modo, senza voler demonizzare globalizzazione, perché sono tutti dei processi, però ha messo in evidenza come le filiere troppo lunghe siano esposte a questo fenomeno, e quindi noi ci siamo trovati da un momento all'altro a scoprire che alcune produzioni in Italia non esistevano più, dobbiamo ricorrere a importazioni con tutto quello che ne consegue, senza, ripeto, siamo in un mondo aperto, quindi senza voler porre barriere di questo tipo. La riflessione è quella che noi abbiamo, il settore moda è dato da, sono circa 80, se a seconda di consideriamo il testo, ovviamente cassatura, comunque parliamo di oltre 80.000 imprese. La stragrande maggioranza di queste sono piccole imprese insediate sui territori, quelli che una volta si chiamavano distretti, con un forte radicamento sociale soprattutto, e una grande competenza. Le stesse Griff hanno il Made in Italy storico, Armani stesso, penso anche con questo messaggio che ha lanciato, se ci riflettiamo, metto in evidenza come tutto quello che il Made in Italy da loro è dato dal fatto che tutti questi Griff hanno dietro una filiera fatta di capacità, di competenze e di saper fare. Noi dobbiamo in un qualche modo mantenere e valorizzare questo, perché se no disperderemo un patrimonio più culturale e di saper fare che poi non sarebbe più ricostruibile. Pensiamo appunto a quello che è avvenuto in realtà vicine nostre, dove anche per la moda sono un settore importante, la Francia o il Regno Unito. Mm-hmm. Perché oggi vedo tante griff francesi vengono a fare un shopping ad acquistare brand italiani, ma non solo brand, anche piccole imprese, perché trovano qui la capacità del saper fare, della competenza. Quindi rimettiamo al centro, a mio parere, dell'attenzione la manifattura, quello che è il sistema delle PMI, quindi al di là di proclami che costantemente vengono fatti, lavoriamo veramente perché questo mondo venga supportato. Non chiediamo della beneficenza, del sostegno che le imprese sono in grado, però mm-hmm. sono quelle imprese che in questi anni sono rimaste sul territorio, hanno continuato a garantire occupazione, pensando tutta una qualità del lavoro e soprattutto ad un rapporto etico e sociale con quelle che è la costituzione del loro, quindi il rapporto con i propri dipendenti, che infatti che molti artigiani poi chiamano collaboratori. Beh, certo, la situazione è molto diversa, diciamo, quando le legami delle PMI sono molto più stretti. Franceschini, la ringraziamo, molte grazie per essere stato con noi. CNA Federmoda, impegnata anche lei in questo frangente. Abbiamo una piccola pausa, tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qui con pronti per un quiz. No, però mi sa che non era un quiz. Adesso io guardo Edoardo Lavezzari in assistenza, guardo Carmelo Lauricella. No, dice Carmelo, no. Va bene, allora un errore. Donato dalla provincia di Varese ci ha chiamato non per concorrere al nostro quiz, ma per raccontarci cose belle in tempi brutti. Buongiorno Donato. Buongiorno, confermo che ha ragione Carmelo, racconto una cosa bella in tempi brutti. Allora, che cosa ci racconta? La cosa bella che racconto è quasi paradossale, considerato che la prima cosa che ci hanno insegnato in questo periodo è distanziamento sociale, no? Quindi stare lontani. Invece racconto una cosa molto bella che sta facendo la mia compagna, sta approfittando di questo periodo di isolamento fisico in realtà per riavvicinarsi con persone con cui, parenti, amici, con cui aveva avuto magari dei dissapori o con cui si era allontanata anche molto nel corso degli anni, e riallacciare le fila dei rapporti con persone che comunque avevano costituito una parte importante del suo passato. Quindi, e quindi insomma ne approfitta per pacificare. Esatto. Mi sembra molto bello, mi sembra una buona idea, insomma, ma cosa fa? Telefona, scrive, come si muove? Telefona, parla e trova quel coraggio che a volte ci manca, no? di dirci le cose in faccia, perché a volte si ha la paura di dire la cosa ad una persona e come se rimproverare a qualcuno un torto che si è subito fosse di per sé offensivo, invece è una parte importante del perdono, no? Anche nel perdono religioso, se si vuole, uno ammette la propria colpa, non si può perdonare né essere perdonati se non si fa, diciamo così, un bagno di umiltà. A volte la mancanza del confronto, anche semplice, crea molta più distanza che non il problema intercorso in sé. Senta, le chiedo un'ultima cosa per curiosità. Dall'altra parte, chi riceve questa chiamata, come la prende? Cioè, è nelle stesse condizioni, no? Quindi guardi, inizialmente la prende quasi sempre con stupore, ma perché questo è un comportamento che per il mio piccolo spaccato di vita è davvero inusuale. Cioè, noi non siamo abituati ad essere approcciati così. Siamo abituati a prenderla sempre alla lontana o addirittura a mettere la testa sotto la sabbia, stile strutto. All'inizio quindi c'è un po' di spaesamento per una reazione che è considerata anomala, diciamo così, però poi viene molto apprezzato perché in realtà riappacificarsi, secondo me, è una delle emozioni più belle che si possono provare, cioè la sensazione di ricostruire qualcosa. Sì, anche di chiudere qualcosa che magari appunto uno sentiva dentro di sé, rimasta in sospeso. Assolutamente, io la penso così, sono assolutamente d'accordo. Donato, grazie molte per aver condiviso con noi queste cose belle in tempi brutti. Pink, it's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. The love you discover. Abbiamo detto di moda e mascherine poco fa e adesso parliamo di mascherine, sempre sì, ma con una invenzione. Carlo, dal mozzicone di sigaretta, filtri per le mascherine. Di questo ci parlerà il nostro prossimo ospite. Ti ha incuriosito questa Sono cosa, vero? Sono curiosissimo. Allora, Antonio Fischetto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci ascolta. Energy Manager per Future Energy SRL a Roma, titolare di questo brevetto, ma però poi qui si parla di Roma, ma io so che lei è poi attivo a Orbassano, vero? Quindi ci spostiamo verso Torino. Sì, io sono di Torino, svolgo la mia attività settimanale a Roma. Sì, in questo momento sono fermo come tanti, forse. Fermo a Torino o fermo a Roma? Fermo a Torino. È rimasto Torino. Bloccato quindi in Piemonte, ecco, in questa situazione. Sono rimasto bloccato in Piemonte, qua ovviamente ho la mia famiglia e i miei bambini, ho lavorato da casa come tanti e devo dire che questo periodo di quarantena sicuramente ha fatto sì che si potesse in qualche maniera provare a pensare quali fossero le soluzioni, diciamo, più innovative per poterci salvaguardare tutti quanti noi da questa problematica. E quindi, come funziona questa cosa del mozzicone, che mi incuriosisce molto? Intanto mi fa anche quasi venire voglia di ricominciare a fumare, perché sono passato alla sigaretta elettronica che non ha filtro, invece se servono i filtrini, sto scherzando ovviamente, ma come funziona questa trasformazione, diciamo, dal mozzicone di sigaretta, e soprattutto come vi procurate i filtri di sigaretta? Cioè, andate casa per casa a svuotare i posaceneri? Bellino. Allora, anzi, diciamo posacenere, chiedo scusa. Posacenere, bene. Allora, il progetto Isabel è un progetto ormai che dura quasi da un anno. Inizialmente il progetto è continua ancora ad esserlo di forte interesse per quello che concerne dal riciclo del mozzicone di sigaretta, dove si estrae una fibra di cellulosa. Inizialmente l'avevamo pensata come imbottitura alternativa per i giubbotti, per i piumini. Abbiamo addirittura impiegato la fibra di cellulosa per creare imbottiture per le cucce degli animali, perché purtroppo gli animali subiscono anche loro indirettamente la nostra maleducazione ambientale. E poi in questo momento di difficoltà, in queste settimane, conoscendo molto bene quali sono le caratteristiche fisiche e meccaniche della fibra di cellulosa, ci è venuto in mente di poterle impiegare come, diciamo, filtro per salvaguardarci da agenti patogeni. Si è discusso molto delle mascherine, quelle sanitarie, dove purtroppo hanno un livello di sicurezza non salvaguardante o comunque un livello di sicurezza un po' basso. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei filtri, utilizzando quindi la fibra di cellulosa, che possano essere impiegabili ovunque all'interno di una qualsiasi mascherina, proprio per aumentare la sicurezza, rasserenare l'utilizzatore e di conseguenza fare in modo che possano essere in qualche maniera più di forte aiuto per tutto quello che riguarda la salvaguardia da patogeno o da eventuale virus. Quindi ci sono, insomma, varie e tante possibilità, ma poi questi filtri li andrebbero applicati su maschere, cioè c'è il filtro, va bene, adesso poi dopo se riusciamo a tirarlo fuori, non so, c'è una produzione già di possibile? Allora, tutto questo è stato fatto da laboratorio, stiamo lavorando su due fronti. Abbiamo, come vi dicevo prima, abbiamo realizzato dei filtri multiforme che possono essere adagiabili all'interno di tutte le mascherine, così almeno possiamo comunque accontentare qualsiasi tipo di tipologia di mascherina in questo momento sul mercato. E poi stiamo lavorando su un Quindi uno dovrebbe semplicemente comprare il filtro e applicarlo sulla mascherina che già ha? Sì, questo potrebbe essere sicuramente una piacevole soluzione per garantire una maggiore sicurezza nell'impiego della mascherina, ma soprattutto dare anche una ciclicità maggiore all'uso della mascherina. E poi stiamo lavorando su una mascherina che possa essere già imbottita di fibra di cellulosa, anche perché la fibra di cellulosa ha delle caratteristiche meccaniche particolari e interessanti, quale la traspirabilità è importante e ovviamente l'efficacia del filtraggio. E la produzione di questi filtri, invece, scusi se la riporto su quel punto? Sì, allora la produzione, vabbè, in questo momento in Italia non c'è proprio una normativa che sancisce bene quali devono essere in questo momento gli iter burocratici per la gestione di questa tipologia di rifiuto, che tra l'altro è considerato altamente inquinante. Noi stiamo lavorando con tante associazioni, con tanti comuni che in questo momento adottano dei progetti solidali per la raccolta del mozzicone di sigarette in strada. Quindi diciamo che come tipologia di rifiuto da gestire non ci manca assolutamente. E vi do un dato in maniera tale che possa in qualche maniera attirare, sensibilizzare un po' tutti quanti. Ogni anno un fumatore produce circa 2 kg di sigarette all'anno. Di conseguenza c'è sicuramente la possibilità di ottenere una materia prima secondaria da questo processo di riciclo. Ma come li intercettate, però? Sono curioso. Come li intercettiamo? Beh, in queste 3 settimane sono state molte le associazioni che ci hanno contattato, ma anche tanti i privati che hanno l'accortezza comunque di conservare il mozzicone un po' dubbiosi su come deve essere gestito il rifiuto. Ci vengono conferiti. C'è un progetto fantastico, tra l'altro, dove adotta un portacenere, dove molti comuni italiani in questo momento stanno provando a mettere in atto, ma sappiamo anche benissimo che ci sono anche tantissime iniziative pubbliche, come la raccolta diciamo, in portaceneri pubblici, e di conseguenza il conferimento ci viene fatto in maniera normale, in maniera gratuita, ma soprattutto con questa forte sensibilità di salvaguardare l'ambiente. La ringraziamo molto, Antonio Fischietto, per essere stato con noi. Grazie per averci spiegato questa invenzione, che comunque, insomma, può ovviamente salvare tante situazioni. E ci faccia sapere come vanno le cose. Sì. Ci tenevo solo a ricordare che il nostro ospite che ha inventato questo brevetto poi ha reso il brevetto gratuito per chiunque voglia produrre dai filtri di sigaretta dei filtri per le mascherine. E ovviamente che stiamo parlando di un materiale che poi viene stralavato, quindi se qualcuno si sta immaginando che poi respirerà qualche cosa che sa di tabacco, non è ovviamente così, perché è un materiale che viene rigenerato, viene lavato e non ha nessuna vicinanza più con il tabacco e le sigarette. Esattamente, grazie Antonio Fischietto, grazie per essere stato con noi. Allora, io vorrei sentire Anna Maria dalla provincia di Treviso prima della viabilità. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Perché anche grazie. Lei voleva raccontarci qualcosa di bello, no, in questi sì, tempi. Sì, beh, una sorta di didattica a distanza tra over 60. Nel senso che con delle amiche con cui avevamo cominciato un corso di inglese, io insegnavo inglese prima, sono in pensione, l'abbiamo continuato attraverso Skype. Questo è positivo perché comunque questa possibilità che il social network, la digitalizzazione ci dà, ci ha permesso di continuarlo. Ma oltre a fare questi incontri di pomeriggio, di mattina, dipende, facciamo oltre all'inglese, la didattica dell'inglese, anche l'analisi di brani letterari, di letteratura in lingua originale, quindi siamo andati verso una più cultura difficile, un po' più profonda, più difficile, però molto, molto entusiasmante, molto cioè occupa 2 ore di nonne che non possono vedere i loro nipotini, che sono lontani dai figli, eccetera. Però li porta poi in un mondo letterario dove scopriamo anche tantissimi aspetti che riguardano situazioni di vita che nel passato, come quella che stiamo vivendo noi di emergenza, sono già accadute anche nell'ambito letterario, quindi questo la ritengo una cosa molto positiva, nonché l'utilizzo poi di social network in una maniera completamente diversa da quella che si è utilizzata prima dell'emergenza. No? Certamente. Grazie Anna Maria. Grazie, grazie e buono studio allora. Buono studio, grazie. Viabilità. Si può fare. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, iniziamo con la nostra classifica delle migliori notizie della settimana e lo facciamo con una notizia che parla di amore, perché il coronavirus ha fatto innamorare 2 adulti, non certo giovinetti, a Verona. Vicini di casa da 40 anni si sono conosciuti grazie alle restrizioni. Non abbiamo contatti, ma è come se ci abbracciassimo ogni giorno, dicono, perché le nostre anime si toccano. Lei dice: sono tornata adolescente. Lui: quando ci incontreremo spero di non deluderla. I due, Paola Agnelli, 39 anni, avvocata, e Michele Dalpaos, 38 anni, bancario, come dicevamo, hanno abitato da una vita nella stessa via, ma appunto si sono innamorati solo in tempo di virus. E al quarto posto, dopo gli innamorati che stanno al quinto posto, ci sono invece i migranti togolesi che donano i propri risparmi all'ospedale di Parma. È arrivato un bonifico di 510 euro che potrebbero sembrare pochi, sono arrivati all'azienda ospedaliera della città di Parma, appunto, ma sono dei soldi importantissimi, perché è una piccola cifra ma per un grandissimo gesto: donare ogni euro risparmiato all'ospedale della città che li ha accolti, non dimenticando di quando erano stati loro ad avere bisogno di solidarietà e altruismo. 11 ragazzi arrivati in Italia in cerca di un futuro migliore, che con il loro gesto hanno dato un insegnamento importante. Anche chi ha minori disponibilità e chi ha avuto una vita difficile della grande... Ai ai ai, abbiamo perso il collegamento con Carlo, che comunque vi ha dato il grosso della notizia che avevamo posto al quarto posto: i migranti togolesi che donano i propri risparmi all'ospedale di Parma. Proseguiamo con il terzo posto, e il terzo posto è occupato dai medici di tutto il mondo che hanno deciso di indossare un badge in cui sorridono, visto che non si può vedere il loro volto perché ci sono le mascherine. I tempi sono duri negli ospedali di tutto il mondo, medici e infermieri e altri operatori sanitari, per alleggerire un po' il clima, non possono neanche sfoderare un sorriso con i pazienti. E allora ecco l'idea, che è partita dagli Stati Uniti: rallegrare e fare forza ai pazienti mostrando una loro foto sorridente attaccata al camice. Come dicevo, si è partiti dagli Stati Uniti, poi si è proseguito in tutto il mondo e adesso appunto fotografie di medici sorridenti arrivano dal Brasile, dall'Irlanda, dall'Argentina, dalla Russia, da tanti altri paesi che hanno deciso di inviare questi scatti all'inventore di tutto questo, che si chiama Robertino Rodriguez, un medico che su Instagram sta facendo una collezione di altri dottori. Carlo? Al secondo posto, mi spiace, prima sono caduto proprio mentre leggevo la bella lettera dei togolesi che scrivevano: ciao nostro caro paese Italia, paese di pace, tu che ci hai salvato la vita, tu che ci hai accolto, tu che ci hai ospitato e adottato, oggi sei in crisi contro un nemico invisibile e non abbiamo la forza di combattere questa epidemia e noi vogliamo aiutare. Ma passo al secondo posto, che invece è riguarda l'Emilia Romagna, dove c'è un boom di accessi alle biblioteche digitali. Ci pensiamo poco spesso perché forse ci sembrano poco utili durante la vita normale, invece sono una gigantesca risorsa le biblioteche digitali. Secondo i dati diffusi dalla regione, il network Media Library Online, il MLOL, che permette gratuitamente di accedere da internet all'archivio delle risorse digitali, è stato visitato da oltre 30.000 nuovi utenti, ovvero un aumento, registrando un aumento del 139%. I prestiti di ebook sono cresciuti del 155%, insomma, sono aumentati tutti i numeri e ci sembra un bel dato. E ricordiamo anche la possibilità di fruire gratuitamente attraverso i portali EmiLib e Rete Bibliotecaria della Regione e San Marino. E infine al primo posto, coronavirus, gli alpini ripristinano 5 ospedali dismessi in 5 giorni destinati alla emergenza. In meno di una settimana sono riusciti a ripristinare gli ospedali dismessi in Veneto di Valdobbiadene, Zevio, Monselice, Isola della Scala e Bussolengo, inutilizzati da decenni, con il conseguente spreco di posti letto e strutture che, vista l'emergenza, potrebbero attutire invece la domanda di stanze e spazio per i malati di Covid-19, le strutture sono state rimesse in piedi dagli alpini con 480 volontari organizzati in turni che andavano dalle 8 del mattino alle 6 del pomeriggio, qualche volta è stato necessario però lavorare anche la notte, e sono stati rimessi a disposizione di chi ne avrà bisogno: medici, infermieri, personale sanitario e ovviamente soprattutto i pazienti. Allora Carlo, non so se vuoi presentare tu il prossimo ospite, se no vado dritta io, gli ascoltatori ormai un po' se l'aspettano comunque. Se lo aspettano, dico semplicemente che è il nostro preside preferito. Gianni Trezzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va la lettura delle poesie, le sue signore che la chiamano tutte le settimane? Bene, il pubblico è raddoppiato, l'afficionato, il pubblico afficionato, siamo arrivati a due. No, certo, oltre alla signora Anuccia che saluto... da qualche giorno si è aggiunta una signora, Daniela, la signora Daniela, che anche lei mi chiama tutti i giorni per la sua poesia quotidiana. Quindi allora gliela chiediamo anche noi, la poesia quotidiana, dai. Ma, allora, dico questa... solamente una cosa velocissima, nel senso che siamo molto contenti di Nuccia e Daniela, queste signore anche di una certa età, che sono forse innamorate del preside, ma gli studenti non chiamano? Come? Sì, sì, qualche alunno chiama, però secondo... come dire, c'è sempre un po' di resistenza. Chiamano più le mamme delle alunne ogni è tanto giusto. Chiamano. Qualche alunna ha chiamato all'inizio, una in particolare, una ragazza di quarta, ha chiamato 2 o 3 volte, poi probabilmente pensano di disturbare, quindi non osano. Voleva solo sincerarsi che foste ancora chiusi. Sì, forse sì, può essere che sia quello. Allora, questa settimana... Prego, abbiamo... la lascio alla poesia. Sì, abbiamo, cioè, ho proposto la poesia giocosa, in particolare 3 poeti sconosciuti, perché sapete che l'Italia è il paese dei poeti laureati, come scriveva Montale, quindi la poesia giocosa è sempre stata considerata una poesia di serie B, un po' come la letteratura per l'infanzia. Questi sono poeti praticamente sconosciuti. Il primo si chiama Filippo Pananti, è dei primi dell'Ottocento, toscanaccio, specializzato in epigrammi satirici. Poi abbiamo Antonio Baratta, che invece è un torinese specialista in epitaffi di personaggi famosi e non, e poi Ernesto Ragazzoni, che è un piemontese del Lago d'Orta, giornalista della Stampa. Grandissimo Ragazzoni. Ragazzoni spettacolare, io direi. Grandissimo. Ma aspettavo anche Gino Patroni nel gruppo, ma insomma siamo contenti. Insomma, tre mi sembravano già tanti, per cui chiedevo poi a chi volevano. Se avete tempo, io intanto sono brevissimo e ne leggerei una. Esatto, vada, no? Perché abbiamo 45 secondi. Ah, allora dobbiamo andare molto veloci. Allora, il primo Pananti. Quanto gran fallo l'adulterio sia, così provava il prete Gianmaria. Una sola persona può rubare, bestemmiare, calunniare, ubriacarsi, percuotere, ammazzare, scandalizzare, gabbare al diavolo darsi. Ma sì grande il peccato della carne, e tali sono le conseguenze sue, che una sola persona non può farne, ma ne ha bisogna due. Questo sì, è il primo. Sì. Poi, visto che il tempo stringe, se vi leggo, magari, visto che piace Ragazzoni. Non ce la facciamo. Accidenti, peccato. Allora rimando, su internet comunque si trova parecchia roba. Oppure, se volete, chiamate 0362 22 15 esatto. 04, sono qua. Grazie a preside. Voi, grazie ancora. Grazie a tutti, anche a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari in assistenza, oggi anche Carmelo Lauricella. Grazie a te, Carlo. Ci ritroviamo domani da Laura Bettini. Un buon ascolto a tutti. E ciao da Carlo Gabardini.